Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Beh, un incontro con i sindacati quando la sera prima hai messo la fiducia è quasi una presa per il culo, se vuoi il mio parere, perché se tu vuoi incontrare davvero e discutere con i sindacati devi farlo quando ancora si può cambiare. Se tu mi dici che ti interessa incontrare a me ma nel frattempo hai già deciso che tu vuoi la delega per fare quello che ti pare, non farmi perdere tempo, ecco, diciamo così. Diciamo così, dice Maurizio Landini, che è il leader della FIOM, e, insomma, un po' contrariato rispetto all'atteggiamento che Renzi, il Presidente del Consiglio, ha avuto con i sindacati. Ha detto tutto lui, non c'è bisogno che vi spieghi niente. Questo per dire che il clima è molto vivace, ancora più vivace è stato oggi e continua a esserlo al Senato. Il voto sulla fiducia relativa al Jobs Act continua a slittare, quindi pensavo di riuscire a raccontarvelo qui in diretta effetto notte, ma non sarà possibile perché credo che faranno tardi. E poi ci sono vari altri argomenti, c'è stato il vertice europeo a Milano sul lavoro, sarà stata una cosa memorabile, avranno deciso cose finalmente concrete che passeranno alla storia, cercheremo di capirlo. Poi tante altre notizie, incomincio ovviamente a elencarvele così. Jobs Act, dopo la bagarre in Senato si vota la fiducia, la minoranza PD ribadisce che la legge è da migliorare, ma dice sia Poletti. A Milano il vertice europeo sull'occupazione, la Merkel plaudi al piano di Renzi, Schulz annuncia pronti 300 miliardi per la lotta alla disoccupazione. Ebola, è morto a Dallas il primo infettato in territorio americano. Camorra, il super boss Setola collabora, ma chiede salvate la mia famiglia e dice la malavita è finita. Nobel per la chimica va a Eric Bettiz, Stefan Hell e William M. Horner, premiati per aver perfezionato la microscopia ottica. Bronzi di Riace non sono trasportabili a Milano per la loro integrità, il parere della commissione scientifica istituita da Franceschini. Musica a Bruxelles, la drag queen Concita canta contro tutte le discriminazioni in Europa e per la pallavolo ai mondiali di Milano le azzurre sfidano gli Stati Uniti. Partiamo quindi, vi dicevo, dal movimentato dibattito sul Jobs Act che approda in Senato, approdato in Senato per il voto di fiducia, tra le proteste dei grillini e i mal di pancia della minoranza PD. Ma sentiamo un po' il clima. Lasciate intervenire il ministro, non mi costringete a prendere provvedimenti. Abbiamo bisogno di coimprenditorialità. Senatore Santangelo, capogruppo, l'ho già richiamato all'ordine, non potete esporre nemmeno fogli bianchi. Nemmeno fogli bianchi, però diciamo che fra le varie cose sono stati lanciati persino dei libri al Presidente del Senato, oppure il codice di comportamento, il regolamento, scusate, del Senato, fra i vari, se proprio volete sapere insomma qualche titolo argomento di questi libri. Una situazione bella tesa, Vincenzo Miglietta, che hai seguito. Ciao Vincenzo. Sì, è così Roberta, buonasera ai nostri ascoltatori. Ci si sta avviando in effetti con molta fatica verso un voto che però non dovrebbe riservare sorprese. Dopo una giornata al Senato invece l'abbiamo ascoltato molto movimentata, l'audio che abbiamo ascoltato era relativo all'intervento del ministro Poletti intorno alle 13, poco prima delle 20, nuova bagarre con libri lanciati solamente perché era stato rifiutato l'idea di andare a domani per quanto riguarda il voto. Tra gli accusati di aver creato questa bagarre non solo i 5 Stelle anche la Lega, ma anche no? I senatori della Lega. Quindi per quanto riguarda i tempi del voto si dovrebbe chiudere comunque questa sera, difficilmente entro la mezzanotte, forse si andrà oltre la mezzanotte, ma il voto non dovrebbe riservare sorprese, anche perché la minoranza del PD ha detto che voterà la fiducia, ma il testo va migliorato, quindi è stato ammesso che qualcosa è stato fatto, ma si spera che poi nel passaggio, Roberta, alla Camera vi siano ulteriori miglioramenti. Il Jobs Act quindi, se tutto va bene, questa sera avrà il primo via libera del Senato, occhi puntati logicamente sull'articolo 18, ed è un dato di fatto, viene archiviato quindi il reintegro per i licenziamenti economici, resta per i licenziamenti discriminatori, mentre per quanto riguarda la fattispecie di quelli disciplinari magari si deciderà più avanti quali casi prendere in considerazione. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie. Ciao Vincenzo, buon lavoro, anche se a questo punto insomma, sarà difficile aspettare sino a quell'ora. Ma intanto a Milano oggi, come vi dicevo, l'Europa si è riunita in un vertice per fare il punto proprio su occupazione e lavoro. Allora sentiamo un passaggio del discorso di Renzi che ha fatto poi in conferenza stampa. Non ho parlato molto del contenuti del Jobs Act durante il mio intervento per tanti motivi. In primis perché del Jobs Act stanno parlando al Senato, si fa per dire, visto che le reazioni di una parte delle opposizioni fanno parte più delle sceneggiate che non della politica. Se si hanno delle idee diverse si spiegano. Se tutte le volte che andiamo a presentare delle riforme in Senato dobbiamo assistere alle sceneggiate di oggi, credo che per noi questo non sia elemento di preoccupazione. A me preoccupa la disoccupazione, non l'opposizione. Però sia un segno di mancanza di serietà e di rispetto. E tra Roma e Milano, quindi tra la politica agitata che abbiamo sentito in Senato e il vertice europeo a Milano, anche i sindacati prendono posizione, anche se con dei distinguo. Sono pronti a occupare le fabbriche, a scendere in piazza, a mobilitarsi in ogni modo contro le politiche di austerity dell'Europa e contro il Jobs Act. Questo è solo l'inizio, non escludiamo nulla, avverte il segretario Maurizio Landini, che oggi ha sfilato a Milano insieme a 2000 lavoratori metalmeccanici, studenti appartenenti a centri sociali. Se è necessario, lo dico già adesso, non solo ci mobilitiamo oggi, ci mobilitiamo la prossima settimana e il 25 siamo a Roma. La CGIL ha detto che c'è una riunione sabato che è pronta a proclamare lo sciopero generale. Bene, e lo vedremo. Noi abbiamo già il mandato e se è necessario lo sciopero generale lo proclamiamo anche come metalmeccanici. Da Fiume CGL dunque nessuno sconto a Renzi, più morbida invece la posizione degli altri confederali. Occupare le fabbriche è l'ultima cosa da fare, dice Anna Maria Furlan, appena eletta a larga maggioranza segretario generale della CISL, al posto di Raffaele Bonanni, che lascia la guida dopo 8 anni. Dialogo e apertura di credito dunque nei confronti del governo. Sosteniamo il governo italiano che nel semestre europeo può creare davvero condizioni diverse. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto in un giorno chiave sul tema lavoro, come avete sentito, arrivano però ancora delle stime negative per l'Italia, questa volta da parte del Fondo Monetario Internazionale e anche dall'OCSE. Con una crescita potenziale del PIL dello 0,5% è impossibile abbattere il debito e creare occupazione. E se le basi sono queste, il futuro dell'Italia non è né sereno né radioso. Così spiega Andrea Montanino, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale la ricchezza nel medio periodo dovrebbe arrivare all'1,5%. Per farlo bisogna agire molto sul micro, bisogna agire con tutte quelle piccole riforme, piccoli cambiamenti del paese che però faranno cambiare e svoltare l'economia nazionale. Montanino si riferisce a giustizia, pubblica amministrazione e mercato del lavoro. Bene quindi il piano di riforme di Renzi, audace e ambizioso, ma deve essere implementato in fretta. Ancora un apprezzamento al Jobs Act, in particolare all'idea del contratto unico. Fondamentale la semplificazione. La riforma principale per fare le riforme è proprio avere processi decisionali semplici. Poi, dopo le parole, i numeri, peggiori dei precedenti. Il fondo parla di un deficit in crescita al 3% nel 2014 e di un debito pubblico al 136,7% del PIL. A rincarare la dose anche l'OCSE con il suo superindice di agosto, che dà un'indicazione sul futuro ciclo economico. Italia meno 0,08%, Germania addirittura meno 0,32%. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in questi giorni si continua a parlare di Ebola. Adesso la notizia nuova è che è morta negli Stati Uniti purtroppo la prima persona che aveva sviluppato i sintomi del virus proprio in America. Il segretario di Stato americano John Kerry ha dichiarato: Ebola è una crisi mondiale che va risolta urgentemente. Thomas Eric Duncan, il cosiddetto paziente zero degli Stati Uniti, è morto alle 7.51 di questa mattina in un ospedale di Dallas, dove era ricoverato in isolamento dal 28 settembre. 42 anni, cittadino liberiano, era arrivato negli Stati Uniti per far visita dai parenti. Aveva detto di non aver avuto contatti con persone contagiate da Ebola. In realtà aveva accompagnato all'ospedale a Monrovia la figlia di alcuni amici quando non aveva ancora sintomi visibili. Intanto si cerca di far luce sulle cause del contagio in Spagna di un'infermiera ausiliaria. Il governo di Madrid ha comunicato che la donna, Teresa Romero, 44 anni, ha potuto contagiarsi per un allentamento di alcuni procedimenti, inclusa la manipolazione del cadavere del secondo missionario deceduto a Madrid. L'infermiera ha intanto fatto sapere di potersi essere toccata il viso con un guanto mentre si sfilava la tuta isolante. Il marito della donna viene tenuto in quarantena nello stesso ospedale della moglie e dice di sentirsi per fortuna benissimo. Susanna Giacab, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, ha riconosciuto che casi sporadici della malattia da virus Ebola nel nostro continente sono inevitabili, tuttavia ha rassicurato: il rischio di una propagazione di Ebola in Europa è estremamente flebile. Per contrastare il diffondersi dell'epidemia in Africa, il governo britannico ha intanto deciso l'invio in Sierra Leone di una nave con a bordo un'unità di pronto intervento medico e 750 militari. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso torniamo sulle notizie italiane con un nuovo messaggio del boss dei casalesi Setola, che dice: voglio pentirmi, ma i PM al momento restano prudenti. Il segnale sarà la protezione per lui e i familiari. Se al di là dei proclami il boss Giuseppe Setola comincerà davvero a collaborare, lo Stato dovrà difenderlo da eventuali vendette. Fino ad allora restano solo annunci quelli che il capo dell'ala stragista dei casalesi fa pubblicamente. Ho deciso di pentirmi, il PM venga da me, chiede in video collegamento dal carcere col tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Dice di aver paura, uno dei più sanguinari camorristi. Riferisce di aver accumulato 35 milioni e assicura di voler cambiare vita, anzi propone anche ad un altro imputato di seguirlo. Giovà, la malavita è finita, scandisce Setola. Parole che lasciano cauti i PM, che già in passato non lo avevano considerato attendibile. Per le cose dette, per l'atteggiamento avuto nell'interrogatorio e dopo in carcere. Stavolta però Setola si autoaccusa di 46 omicidi che non gli erano contestati. Lo sentiremo e vedremo, spiega il procuratore aggiunto di Napoli, Giuseppe Borrelli. Siamo andati a sentire Setola e abbiamo ritenuto di non dar seguito alla sua affermata volontà di collaborare. Dopo aver sentito cosa ha da dirci, traremo le nostre valutazioni. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Poi ne parleremo, torneremo a parlare di questa faccenda con un uomo simbolo della lotta alla camorra. Adesso però spostiamoci sulle altre notizie. Ieri era montata molto la polemica sulla circolare che il ministro Alfano aveva fatto ricevere ai prefetti per bloccare la trascrizione delle nozze gay avvenute all'estero in Italia, nei comuni italiani. C'è stata la ribellione dei sindaci e oggi l'ANCI, che è appunto l'associazione dei comuni italiani, chiede un incontro urgente con Renzi e con Alfano. Il presidente dell'ANCI, che Fassino, sottolinea che si tratta di una materia troppo delicata, che è necessario quindi un orientamento chiaro. C'è una notizia che riguarda anche i bronzi di Riace: non sono trasportabili. Sapete che anche qui era stato a lungo dibattuto se era il caso di portarli. Sgarbi voleva che ci fossero per l'Expo a Milano 2015. Bene, non si porteranno, il parere della commissione scientifica istituita da Franceschini, che sconsiglia lo spostamento, non potendo escludere, scrivono, un pregiudizio alcuno per la loro integrità e conservazione. Una risposta, dice il ministro, molto chiara, che chiude il dibattito. Quindi è chiuso qua. Poi c'è il Nobel per la chimica, va a due ricercatori americani, un romeno che lavora in Germania, Erik Bethic, William Mörner e Stefan Hell sono riusciti a trovare il sistema per realizzare una sorta di super microscopio, e ha contribuito anche l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha lavorato con loro. In chiusura, la pallavolo: a Milano è in corso la fase decisiva dei mondiali femminili. L'Italia affronta gli Stati Uniti in una sfida già decisiva per l'accesso alle semifinali. E siamo già 2-7-0 per l'Italia. L'Italia sta veramente, delle ragazze, sta sfondando in questi mondiali. Più tardi comunque ci aggiorneremo, sperando che vada avanti così il risultato. E potete, per il resto, per le varie notizie, come sempre, lo sapete, ci sono due canali per i vostri messaggi: o gli sms al 349-238-6666, già ringrazio Mirka, oppure c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, potete aderire, potete partecipare, potete scrivere le vostre opinioni, linkare quello che volete. Francesco già dice: vertice sul lavoro, intanto per andarci usano poliziotti come autisti su Fiat incomodato, non è solo contro il codice ma toglie lavoro a taxi e anche le vetture con il conducente. E poi invece qualcuno dice questo vertice è inutile, ne parleremo poi, parleremo con un collega che è stato oggi direttamente lì a sentire che cosa si concludeva. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le riassumo brevemente le notizie e tra poco cominceremo a parlare di politica, del Jobs Act, di questa fiducia posta in Senato per la quale il voto abbiamo sentito slitta, probabilmente ci sarà a mezzanotte se tutto va bene. E quindi al vertice europeo a Milano, informale sul lavoro, Renzi incassa l'ok della Merkel che dice il Jobs Act è un passo importante e il Presidente del Consiglio dice che siamo ormai credibili con le riforme. Poi per il Jobs Act, voto di fiducia innottata al Senato, ma è bagarre, è stato lanciato anche un libro conto grasso che era proprio il regolamento del Senato. Ebola è morto, il paziente zero, paziente che si era ammalato negli Stati Uniti, l'infermiera infettata in Spagna dice che si è infettata probabilmente strusciandosi sul viso un guanto. E poi Mose Galan patteggia dai PM sì ai domiciliari, quindi il GIP si riserva la sentenza su De Magistris, voleva sapere delle telefonate dei parlamentari. Dopo 10 anni addio di Marchionne nel 2018, lo annuncia, farò altro, così dice Marchionne, insomma anche lui andrà in pensione, per così dire, una pensione un po' particolare. E poi abbiamo sentito dei microscopi da Nobel, vedono l'infinitamente piccolo, 2 americani e 1 tedesco sono stati premiati, ma c'è anche un po' d'Italia in questo premio. Quindi dicevamo che si vota in Senato la fiducia posta dal governo sul Jobs Act, è stato un percorso molto travagliato ed è travagliato tuttora perché abbiamo sentito che è slitta il voto, che c'è stata bagarre come si usa dire, soprattutto a causa del Movimento 5 Stelle e della Lega che hanno fatto dimostrazioni, hanno lanciato monetine, anche i libri di cui dicevamo. E però pare che un risultato è che la minoranza del PD alla fine si è detta soddisfatta, ha detto che il giudizio non è positivo sulla fiducia, quindi sulle modalità, però hanno trovato un accordo e voteranno sì, sperando che nel passaggio alla Camera poi ci sia qualche altro cambiamento, questo Jobs Act. Civati, in realtà Pippo Civati, che abbiamo sentito 2 giorni fa qui Effetto Notte, dice che qualche senatore però è pronto a dimettersi e lo farà probabilmente al momento della dichiarazione di voto. Seguiremo, questo potrebbe essere un momento molto teso. Intanto, come avete sentito, Renzi ha preso il plauso anche di Angela Merkel sul Jobs Act, che ha detto un passo molto importante. Allora saluto Antonio Pulito, bentornato Antonio. Buonasera. Buonasera a te, direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere della Sera. Intanto un tuo parere su questo movimentato, dicevo, percorso del Jobs Act e la giornata di oggi. Ma diciamo che è una prova di forza che Renzi ha fatto soprattutto nei confronti del suo partito e della CGIL, che ha influenza sulla cosiddetta minoranza del PD, ed è una prova di forza vinta da questo punto di vista. È qualcosa che neanche Monti riuscì a fare, no? Ci provò ma non ci riuscì, perché allora il PD lo bloccò. Stavolta Renzi ha fatto quello che Monti voleva e forse doveva fare già allora, con l'abolizione, con la riforma del mercato del lavoro. Bisogna però dire che ahimè sono un inizio, perché in realtà il Senato stasera voterà la fiducia su una legge che si chiama legge delega, cioè sì, delega al governo di scrivere le norme. Quindi adesso passerà un bel po' di tempo, 6 mesi diciamo, durante i quali il governo scriverà nel dettaglio per esempio le nuove norme sui licenziamenti e poi diventeranno legge quando saranno passate di nuovo alla Camera, anche se solo per un parere, non per un voto vero e proprio. Scusa Antonio, quindi ti interrompo per chiederti, intanto ti ringrazio di aver spiegato alle ascoltatrici e ascoltatori cos'è una legge delega, appunto quando il governo si sostituisce al Parlamento nel legiferare, però ti sembra anche un po', usando così un'espressione, giocando su un'espressione, una delega in bianco, cioè c'è chiarezza in questo testo, si vota un testo chiaro, nero su bianco, su quello che sarà? Ma guarda, su molte cose sì, per esempio sulla riforma di tutti i tipi di contratti di lavoro che ci sono, è stato detto con chiarezza che verranno introdotti dei fondi, anche se limitati, 1,5 miliardi per accrescere gli ammortizzatori sociali. Sul punto delicato, cioè quello dell'articolo 18, in realtà quello a cui dobbiamo far riferimento per ora è la dichiarazione che ha reso oggi, anzi non ho reso perché non gliel'hanno fatta finire di rendere, ma alla fine poi l'ha consegnata, il ministro Poletti al Senato, il quale ha detto che nelle intenzioni del governo c'è di eliminare del tutto il reintegro, la possibilità del reintegro in caso di licenziamento economico, che verrebbe risarcito soltanto con una somma da parte dell'imprenditore, di mantenere ovviamente, ma questo direi che è scontato perché è un diritto costituzionale, il reintegro nel caso di licenziamento discriminatorio, ti licenzio perché sei nero o perché sei donna o perché sei ebreo, chiaramente il licenziamento è nullo in quel caso, e di prevedere la possibilità del reintegro nel posto di lavoro da parte del giudice nei casi di licenziamenti cosiddetti disciplinari solo in alcuni casi particolarmente gravi, ha detto Poletti, e che andranno indicati in questa delega, in questa legge, in questo decreto delegato di cui parlavo prima, quindi non conosciamo ancora quali saranno. Quindi non direi che è una delega in bianco di tutto, ma certamente contiene molti margini di flessibilità e di variabilità. Visto che hai citato il ministro Poletti, sentiamo proprio un breve passaggio. Per il governo italiano è assolutamente centrale e prioritaria la delega lavoro, in tutta la sua portata, non solo l'articolo 18, che ne rappresenta certo una parte significativa, ma che nelle nostre aspettative non è, come invece potrebbe apparire dalla discussione di queste settimane, una sorta di alfa omega della nostra riflessione. E adesso invece vorrei far sentire il decisionismo sempre di Renzi, anche questo sintetizzato in poche parole. Possono contestare, possono far polemica, ma la verità vera è che questo paese lo cambiamo. E cambiandolo facciamo l'unica cosa che veramente serve nel restituire posti di lavoro, più 83.000, ma c'è ancora tantissimo da fare, l'unica cosa che veramente serve è restituire fiducia alle famiglie italiane. Questo paese lo cambiamo, chiedo a te Antonio Polito, chiedo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di rispondere a questa dichiarazione. Secondo te è effettivamente in grado Renzi, il governo che lo appoggia, di cambiare? Beh, questa è una domanda un po' da un milione di dollari, tu dici, però rispetto a come sono andate le cose finora. È da un'oretta di tempo da rispondere. Ma naturalmente, senti, lui ha, diciamo così, l'energia, la voglia e anche una situazione, come posso dire, interna e internazionale favorevole, perché in realtà il Parlamento non ci sono alternative, il Parlamento lo sa e quindi si tiene il governo che c'è. E questo durerà a lungo, quindi sono condizioni eccezionali. E anche in Europa, paradossalmente, la recessione, la difficoltà di alcuni paesi come la Francia sul bilancio, come dire, mettono un po' in penombra i nostri problemi, il nostro debito, quindi forse possono consentire al governo qualche flessibilità in più. La questione è cambiare di direzione, ha, diciamo così, il passo, il progetto, il disegno, la squadra per cambiare il paese radicalmente, o siamo di fronte a una serie di fuochi di artificio di un leader molto energico ma che non sa bene la direzione in cui sta andando? Questa è una risposta che soltanto il tempo ci potrà dare. Io ho delle opinioni personali, ma non ha alcun senso dirle stasera. Neanche una delle tue opinioni personali a dire? Ma io penso, e l'ho scritto più volte, che lui abbia, che ci sia una debolezza del governo, della squadra e del gruppo che lavora intorno al Presidente del Consiglio, per cui il Presidente del Consiglio è un po' un uomo solo in testa, no? Come un ciclista in fuga, e non so se il gruppo è in grado di seguirlo. Quindi questa è la tua opinione. A proposito di gruppo che se è in grado di seguirlo, della squadra, dei ministri, eccetera, per quanto riguarda la minoranza PD, sentiamo che hanno presentato un documento, no? Senatori e deputati, sono in tutto mi pare 35 parlamentari della minoranza che hanno detto voteremo sì, però hanno presentato questo documento che è stato illustrato da Maria Cecilia Guerra. Sentiamo. Il nostro obiettivo è e sarà anche nel lavoro che continuerà dopo l'approvazione di oggi quello di migliorare la delega. Per questo motivo il documento che vedrete, oltre ad essere firmato da 26 senatori, quindi quasi tutti quelli che hanno firmato gli emendamenti originari, è anche firmato da un gruppo di deputati della direzione PD. Questi deputati, che in parte sono presenti oggi con noi, sono quelli che più hanno seguito i temi del lavoro. Non è un Non dovete pensare alle nuove firme che vedrete come firme che esauriscono il tipo di sostegno che le nostre posizioni hanno alla Camera, no. Questo insomma ha spiegato la minoranza PD che cosa intende fare per appoggiare poi completamente il governo e le iniziative di Renzi. Sentiamo però in chiusura, Antonio Polito, anche che cosa ha detto Landini, il leader della FIOM. Se è necessario, come si è detto, laddove ci vorrebbero far firmare dei licenziamenti o pensano di ridurre i salari, se è necessario, anche l'occupazione è una forma di mobilitazione, di lotta per difendere il lavoro e i diritti. Però il problema in questo momento è trovare le forme anche nuove che siano in grado di unire il mondo del lavoro. Quindi un po' minaccioso all'inizio, però poi possibilista. Che dice Antonio Polito Landini? Ho interpretato male. La FIOM ha preso la guida di questo fronte contrario a questa riforma e anzi ha ritrovato un'unità con Camusso e con la CGIL, no? Se i due erano un po' in conflitto in passato, sì. Adesso invece hanno fatto fronte comune. Sai, occupare le fabbriche, oggi ho sentito una battuta amara, ahimè, che diceva occupare le fabbriche, quelle che trovo ancora aperte. Cioè la situazione del paese è tale che parlare di occupazione di fabbriche mi sembra tutto insensato. Aggiungo che la recessione, la disoccupazione e i dati che sembrano andare sempre in una direzione peggiore, non migliorare, che sono i consumi, il rischio di deflazione, eccetera, sono una forte limite e un pericolo anche per il governo stesso, perché è chiaro che il sostegno, il consenso popolare che oggi incontra questo tentativo di Renzi di cambiare l'Italia, come dice lui, durerà il tempo consentito dalla crisi economica, nel senso che se le cose continuano ad andare così male, anche questo consenso rischia di ridursi. Già. Grazie Antonio Polito, grazie e buon lavoro. Ciao, grazie Antonio. A voi. Ciao Antonio. Dunque, questo paese lo cambieremo, dice Renzi, con la sua solita sicurezza. Voi ne siete convinti? Avete fiducia? Il numero per i messaggi è sempre il 349-238-6666, se no c'è comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte. Ora, con invece Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao. Oggi inviato al vertice europeo, è andato a seguire il vertice dei leader europei, che era un vertice informale. Forse Renzi nel suo semestre, visto che era... questo è il semestre della presidenza italiana, avrebbe voluto qualcosa di più, di un po' più importante. Insomma, sono stati decisi dei provvedimenti che lasceranno il segno nella lotta alla disoccupazione? No, nel senso che già si sapeva che non sarebbe stato sicuramente un vertice dalle grandi decisioni. Alla fine si è sostanzialmente ribadito l'impegno sul programma chiamato Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, iniziativa europea, che poi in Italia e in altri paesi è stata declinata come Garanzia Giovani. Ci spieghi che cos'è in concreto? Sostanzialmente ci sono 6 miliardi di fondi europei addizionali rispetto ai fondi strutturali che già vengono erogati alle regioni, di cui l'Italia ha circa 1,1 miliardi su un biennio, questo è il prossimo, per fare in modo che innanzitutto si modernizzino le agenzie pubbliche per l'impiego, e l'Italia ne ha un enorme bisogno, e soprattutto il senso globale è dare a ogni giovane che resta disoccupato o inattivo entro 4 mesi dalla fine degli studi, dall'inizio della disoccupazione, un'opportunità, che sia un'opportunità di formazione piuttosto che un'opportunità di tirocinio o di lavoro. Questo è il senso generale di questa iniziativa su cui l'Italia ha avuto il via libera a luglio dalla Commissione europea. Bisogna dire che abbiamo sentito stasera come Radio 24 il commissario all'occupazione europeo Laszlo Andor, domani lo trasmetteremo anche nei nostri GR, ci ha detto l'Italia su questo però è ancora abbastanza indietro, cioè ha lanciato in qualche modo un allarme, attenzione che su Garanzia Giovani non siete molto poco armonizzati, ci sono regioni molto avanti, regioni molto indietro, però in generale l'Italia non sta facendo molto bene, questo ci ha detto in sostanza Andor. Però invece sul Jobs Act mi sembra che Renzi abbia conquistato l'approvazione, il plauso di Angela Merkel, della Commissione Europea, dell'Unione Europea. Sì, diciamo che effettivamente più che sul Jobs Act, sulla filosofia che c'è di cominciare a fare le riforme strutturali che l'Europa chiede, perché poi effettivamente il Jobs Act non è nient'altro che una legge delega che poi andrà riempita in buona parte dal governo, quindi come poi nel dettaglio l'Europa sa che l'Italia sta facendo una riforma strutturale del mercato del lavoro, ma non sa cosa c'è dentro, diciamo, nel dettaglio almeno. Sa che l'obiettivo finale è eliminare il dualismo tra chi è dentro e chi è fuori, infatti questo è stato più volte rimarcato, però il plauso non è tanto al Jobs Act in sé forse, ma più al dire l'Italia sta cominciando a fare quelle riforme che le abbiamo chiesto di fare, quindi su questo bisogna dire è stato comune il plauso sia dalla Merkel che da tutte le istituzioni europee, questo sì. Grazie Sergio Rava, grazie. Queste quindi le conclusioni di questo vertice informale che c'è stato oggi a Milano. A proposito di occupazione, c'è un'agenzia di questi istanti che è un report sugli statali, oltre 3.000 vincitori di concorsi ancora da assumere. In Italia sono oltre 3.000 vincitori di concorsi pubblici ancora da assumere, quanto emerge dai primi dati del monitoraggio telematico dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato. Il report è stato appena pubblicato sul sito della funzione pubblica, questo per quanto riguarda l'occupazione. Ci sentiamo tra poco, potete continuare a scrivere i vostri messaggi al 349-238-6666, sms su questo concetto espresso con decisionismo come sempre da Renzi, cambieremo questo paese comunque sia, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e arrivano sempre qui Effetto Notte i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Sulla pagina per esempio leggo Nino che dice, a proposito della frase di Renzi che dice cambieremo questo paese, Nino dice siamo interni a una nuova ideologia, il cambiamentismo, questo è particolare. Poi Claudio Antonio, ho dei dubbi, poi bisogna vedere come, in peggio o in meglio. Daniele scrive: Renzi non conosce neanche l'ABC della macroeconomia e i suoi sedicenti consiglieri portano avanti esattamente le stesse politiche di Monti. Alessandra scrive: la speranza è l'ultima a morire. Floriano: speriamo, ma la vedo dura. Adesso però vi sintetizzo, prima del prossimo tema, del prossimo ospite, le notizie più importanti di oggi. Jobs Act, dopo la bagarre in Senato si vota la fiducia, che slitta il voto a mezzanotte, la minoranza PD ribadisce che la legge è da migliorare, ma dice sì. A Milano il vertice europeo sull'occupazione, la Merkel plaude al piano di Renzi, Schulz annuncia pronti 300 miliardi per la lotta alla disoccupazione. L'allarme Ebola, è morto a Dallas il primo infettato in territorio americano. Per la camorra il superboss Setola collabora ma chiede salvate la mia famiglia e dice la malavita è finita. Bronzi di Riace non sono trasportabili a Milano per la loro integrità, è il parere della commissione scientifica istituita da Franceschini. Musica, a Bruxelles la drag queen Concita canta contro tutte le discriminazioni in Europa e per la pallavolo è arrivato il risultato, le azzurre, i mondiali di Milano hanno battuto gli Stati Uniti 3-0, un ottimo risultato. Quindi notizia che è arrivata oggi riguarda la camorra, si pente il boss Setola, capo dell'ala stragista dei Casalesi. Al processo per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello, il boss Giuseppe Setola, imputato dell'assassino, ha detto di voler collaborare con la giustizia, però ha detto in videoconferenza: ho deciso di collaborare, venga da me, il PM Milita venga subito, salvate però la mia famiglia altrimenti i bidognetti li uccidono, sapete queste faide tra famiglie. E poi ha detto anche, rivolto a un altro imputato, Giovanni Letizia, ha detto: Giova, lo so che non sei d'accordo, ma la malavita è finita. Però gli inquirenti, finora i magistrati, lo classificano come persona inaffidabile, infatti sono molto prudenti nei suoi confronti rispetto a questo presunto pentimento, tanto che ricordano che ha minacciato in tante occasioni sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia, che non si è voluto per tanto tempo sottoporre a verifiche alla vista, diceva che aveva delle patologie particolari, poi invece ci vede benissimo, ha compiuto 46 delitti. Però voglio coinvolgere il sindaco di Casal di Principe, considerato fino ad ora, almeno fino a qualche tempo fa, il feudo della Camorra, Renato Natale, buonasera. Buonasera. Grazie del collegamento, sindaco. Tra l'altro il sindaco Natale è medico da sempre in frontiera contro la criminalità organizzata, è simbolo della lotta ai boss, era già stato sindaco nel 93, durò pochi mesi prima che il clan ottenessero la sua destituzione, programmando anche di ammazzarlo. Per fortuna vivo e vegeto è tornato a fare il sindaco a Casal di Principe. È un po' cambiato questo territorio, sindaco? Certamente, profondamente cambiata, soprattutto tra i cittadini. Senta, cosa ne pensa allora di questa dichiarazione del boss Setola, intanto che si vuole pentire e poi che la malavita è finita? La camorra, come dice qualcuno, è anche cosa nostra, la mafia, si stanno indebolendo e l'andrangheta, l'unico vero potere nell'organizzazione criminale più potente, mentre la camorra e la mafia si stanno un po' spegnendo? Beh, insomma, sul pentimento credo che abbiano ragione i giudici, bisogna fare molta attenzione perché il personaggio ci ha abituato a questi atti di teatralità anche in passato, quindi bisognerà verificare questo suo pentimento. Che la Camorra sia sparita, beh certo, la Camorra e le organizzazioni criminali, così come le abbiamo conosciute nel corso degli ultimi 30 anni, di sicuro se non c'è più, o perlomeno è stata ridotta ai minimi termini. Ciò non significa però che abbiamo vinto la guerra contro queste mafie, bisogna anzi fare molta attenzione perché nella crisi economica si può trasformare, trasferire anche in altri posti della nazione, dell'Europa, ed essere anche un domani, la potremmo scoprire, ancora più pericolosi di quelle che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Certo, come diceva lei, la crisi è un grande rischio, però appunto qualche tempo fa il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha proprio sentenziato: il clan dei Casalesi non c'è più, è stato sconfitto. Nato proprio lì a Casal di Principe, per questo dei Casalesi, no? Il suo paese. Chiamate perché così fu definito a suo tempo, con una grave, come dire, iattura nei confronti della popolazione che si trasporta dietro questo marchio negativo, quando invece poi la stragrande maggioranza dei cittadini sono ben altra cosa. Il clan dei Casalesi, così come è stato definito e così come è stato conosciuto, ha subito numerosi tracolli anche dal punto di vista dei pentimenti, perché i pentimenti sono numerosissimi all'interno di questo clan, che hanno determinato una sconfitta, una riduzione ai minimi termini. Ma ripeto, queste organizzazioni criminali ci hanno abituato nel corso di decenni e di secoli ad una loro capacità di profonda trasformazione, per cui non dobbiamo sempre tenere alta la guardia e capire che questi che qui sparavano e ammazzavano potrebbero aver trasferito interessi e intelligenze e organizzazioni in altre parti d'Italia, approfittando delle crisi e impossessandosi di pezzi di economia. Questo è il pericolo vero oggi. Renato Natale, e nel suo paese Casal di Principe, che è cambiato anche grazie molto a lei, che cosa c'è da fare ancora? Che cosa sta facendo? C'è molto da fare per ridare un minimo di infrastrutture civili a questa città, un minimo di personale adeguato alla sua attività comunale, ma la cosa importante è questa: si è dimostrato in questi mesi e soprattutto in quest'estate la voglia forte dei cittadini di cambiare e di ricostruire una comunità. La gente esce per piazza, si è preso possesso di nuovo delle strade, delle piazze, dei luoghi pubblici. C'è cittadinanza attiva, a centinaia i cittadini stanno lavorando gratuitamente per recuperare strade, piazze, per fare la pulizia, per recuperare lo stadio, e questa è la cosa straordinaria che sta avvenendo e che è avvenuta. Non so, non dico grazie a me, ma è probabilmente che questa gente aveva un bisogno fortissimo di sentirsi libera, e oggi anche grazie a magistratura, forze dell'ordine, ma anche ad una società civile che è cresciuta negli ultimi 20 anni, si sente più libera e quindi vuol partecipare alla propria ricostruzione. Sindaco Natale, allora complimenti e vada avanti col suo coraggio. Grazie, a presto. Grazie, buonanotte. Adesso stiamo per aggiornare chi viaggia. Leggo ancora due messaggi dei vostri sulla frase di Renzi che dice: questo paese lo cambieremo. Ma quale Job Act? Una delega in bianco senza né capo né coda. Ha ragione Landini, si firma Michele, dirigente d'azienda. Poi dice Antonio Termoli, da Termoli: questo paese lo cambieremo sicuro, ma quello che non si capisce è perché deve essere bruciata un'intera generazione di giovani cresciuti nell'illusione di un futuro migliore, ma arrivati ad oggi con la certezza di dover fare di più per avere molto di meno. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole in breve le notizie, con Renzi che incassa l'ok della Merkel sulle riforme strutturali, sulla riforma per ora del lavoro. Oggi c'è stato il vertice europeo informale a Milano sul lavoro e dice la Merkel: il Jobs Act è un passo importante. A proposito di questo, oggi ci sarà il voto di fiducia in Senato, che è slittato però in nottata, dovrebbe avvenire verso mezzanotte, ma è stata una giornata di bagarre. Proprio a Palazzo Madama è stato lanciato anche un libro contro il presidente Grasso. Ebola ora è morto il paziente zero, il primo che si era infettato direttamente negli Stati Uniti. E poi avete sentito che le azzurre della pallavolo hanno vinto contro gli Stati Uniti per 3-0 nei mondiali che si stanno giocando ad Assad. Europa 24 notte. E questo è lo spazio europeo. Si sapeva che sarebbe diventato un caso delicato. Il candidato ungherese alla Commissione europea, Tibor Navracsics, non ha ricevuto il via libera della Commissione parlamentare europea per la cultura. Voleva diventare commissario, non ce l'ha fatta. La Commissione ha ritenuto l'ex ministro degli esteri di Budapest realmente attaccato ai valori dell'Unione europea e a farli valere, ma non lo ha invece ritenuto adatto ai portafogli specifico per il quale è stato candidato. Adesso che cosa succede? Lo sentiamo direttamente dalla voce di Silvia Costa, che è presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo. Sicuramente noi abbiamo avuto una audizione molto, diciamo, vivace, e che io cerco di tenere sempre nei limiti del grande rispetto, perché non poteva essere un processo ad un paese, e quindi l'audizione è stata però per molta parte sulla questione. Lei sa che dobbiamo rispondere a due quesiti fondamentalmente: se il candidato è idoneo rispetto ai temi dell'indipendenza e dell'adesione ai valori europei, e l'altra se è idoneo a gestire un portafoglio. In questo caso le risposte sulla prima parte sono state giudicate diversamente, evidentemente, all'interno della Commissione, nel senso che per alcuni, anche se devo dire che Navracsics, tanto io ricordo che lui insegna integrazione europea all'Università di Budapest, e pur avendo fatto però parte del governo Orban, prima ministro della giustizia e ora ministro degli esteri, ed è considerato comunque un po' più indipendente anche come docente universitario, è stato lui il mediatore con l'Europa, e quando c'è bisogno di cambiare quelle leggi che erano sicuramente violavano dei principi di pluralismo dell'informazione ed altri, però certamente la maggioranza, insomma, della Commissione, abbiamo considerato che lui ha manifestato, ha detto cose anche molto impegnative rispetto al fatto, per esempio, che nel caso in cui un governo, compreso il suo, violasse i principi fondamentali del trattato su cui lui avrebbe giurato, lui avrebbe naturalmente sanzionato quel governo. Invece sulla seconda parte, sulla gestione del portafoglio, ovvero educazione, cultura, cittadinanza, politiche giovanili, ci è sembrato non così padrone della materia dal punto di vista di quelle che sono realmente le sue competenze future, dal punto di vista della gestione di questi programmi. Per queste ragioni il verdetto finale è stato che lui è in grado di far parte del collegio della commissione di Juncker, ma probabilmente questo portafoglio non è adatto a lui. E ora alla cultura cosa succede? Diciamo questo: siccome io sono una persona che sono molto, molto diretta e sincera, io dico che naturalmente adesso non è tutto nelle nostre mani. Il dovere della Commissione Cultura l'abbiamo fatto e l'abbiamo detto con chiarezza. Adesso ci sarà la conferenza dei presidenti delle commissioni, nella quale si dovrà comporre il quadro, perché sono altre questioni diciamo sospese o non ancora definite, su altri commissari su cui ci sono delle problematiche, e a quel punto si dovrà vedere, trovare un punto di incontro, di mediazione, naturalmente non è tutto in nostre mani, né politicamente né come commissione, per vedere quale può essere la soluzione. Naturalmente le soluzioni possono andare da quella di cambiare portafoglio e vedere qual è un altro portafoglio, non è facilissimo, perché bisogna trovare, come dire, una sostituzione all'interno delle deleghe già affidate ad altri, oppure quella di rivedere il suo portafoglio. Ma io credo che la migliore soluzione sia quella proprio di pensare ad un altro, alla gestione di un altro, di un'altra competenza. E quindi il processo è ancora in corso. Siamo dentro un processo di valutazione, non abbiamo concluso. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Oggi la presenza a Milano è un'occasione per me troppo ghiotta per non salutare i Sinini & Co e dire loro che siamo orgogliosi dei risultati che hanno fatto. Poi speriamo bene, questo è un girone di ferro, americani e russi, in ogni caso ci hanno reso orgogliosi, la politica dovrà fare di più per fare più palestre e anche per dare qualche segnale in più al mondo dello sport e in particolar modo della pallavolo, perché il volley è veramente un qualcosa che riguarda tantissimi studenti e studentesse, soprattutto studentesse, insomma, da mille scire in giù la nostra generazione è cresciuta con i sogni della pallavolo. Quindi hai sentito Dario Ricci, che sei lì, che ha seguito questa partita, un'occasione ghiotta è stata per Renzi, lo è stata anche per te, immagino, seguire le ragazze. Sì, devo dire che qua ho sentito ben poco Renzi, ma tanto tanto entusiasmo, lo sentite quello del forum di Assago, 3-0 agli Stati Uniti, Roberta. Complimenti, partiamo, complimenti. Partiamo alla grande con questa girone di semifinale, è davvero adesso la semifinale mondiale a un passo, i parziali 25-23, 25-22, 25-20 per le azzurre che hanno sofferto all'inizio nei primi due parziali, poi in entrambi i casi con due straordinari rimonti nel finale si sono aggiudicati i due set e poi senza storia il terzo, la Belcore miglior marcatrice con 15 punti, la Centoni 14, Costa Grande 13, ma veramente una grande, grandissima Italia, adesso la semifinale è un passo, battendo la Russia dopo domani ci eviteremo anche l'incrocio più pericoloso con le brasiliane, quindi sarebbe davvero una gran cosa, ma soprattutto godiamoci questo straordinario risultato perché si è vista veramente una pallavolo all'altezza di quella squadra che nel 2002 a Berlino seppe conquistare il mondiale. Grazie Dario Ricci, godiamoci allora questo risultato, forza ragazze, ciao Dario, salutaci, ciao. Le ragazze, ciao. Leggo ancora giusto questi pochi secondi che rimangono, ancora qualche vostro messaggio dei tanti che sono arrivati sulla dichiarazione di Renzi, cambieremo questo paese, lo cambieremo, scrive Andrea, i nostri figli che vanno a scuola compriamo anche la carta igienica e il sapone, con la nuova Italia finirà questo? Ennio da Bari scrive, Renzi è il nuovo teleimbonitore. E poi Joe, il coccobello Renzi sta cambiando il paese in peggio, per superare la crisi bisogna ridurre il peso fiscale ai lavoratori e imprese, altre vie non ce ne sono. E poi qualcuno che dice abbiamo bisogno appunto del salvatore della patria, noi italiani siamo un popolo di egoisti e individualisti, non esiste nel nostro DNA il concetto di cameratismo o bene comune, solo sotto i regimi totalitari abbiamo prosperato, questo è il pensiero di un altro ascoltatore. Bene, direi che a questo punto possiamo brevemente lasciarci per ritornare giusto dopo per ricordarvi le notizie.